Letture di Radio 24. Il ragionier Ugo Fantozzi in viaggio. È così che si sente lo scrittore Maurizio Cucchi quando prende il treno che da Milano lo porterà a Nizza. Sulle pagine del venerdì di Repubblica racconta la sua avventura di viaggiatore paziente, alle prese con treni di varia natura ed episodi bizzarri. Quando prendo il treno per Nizza, mi sento molto vicino a un tenero ragionier Ugo Fantozzi in viaggio. In un tempo passato, ma non proprio remotissimo, era possibile andare con un normale convoglio ferroviario da Milano fino a Marsiglia. Il passo successivo è stato quello di limitare il percorso fino a Nizza. A bordo di mirabili carrozze d'epoca, sgangherate, odoranti e pittoresche, si impiegavano tra le 4 e le 5 ore, essendo in ritardo quasi ufficialmente garantito. Quel treno, il più veloce previsto, godeva dell'eccellente titolo di Intercity Plus ed era ospitalmente fornito di un paio di carrozze, per così dire, di prima classe, nelle quali, in genere, delle 4 toilette ce n'era una quasi sempre funzionante e dove almeno una porta o due per la salita e la discesa erano opportunamente guaste. Negli scompartimenti i tavolini erano in genere in ripida discesa, affinché bottigliette, bicchieri, telefonini o altri arnesi utili al viaggio scivolassero veloci a terra. A tutti questi vantaggi si aggiungeva il lussuoso comfort di uno scampanellante carrettino, in grado di proporre acqua e i più succolenti tramezzini muffiti. Tutto questo, l'insieme, voglio dire, di tali nobili servizi offerti al viaggiatore, è rimasto, a nostro beneficio, pressoché immutato. Da un paio d'anni, però, un nuovo elemento di prestigio è venuto ad aggiungersi a beneficio del viaggiatore. Nizza, infatti, non è più raggiungibile in via diretta neppure con quell'elegante e prodigioso convoglio storico che, infatti, si arresta, forse stremato, al confine di Ventimiglia. Dopodiché il paziente viaggiatore, o più semplicemente il paziente, deve accomodarsi su un indolore locale francese che fa imperterrito tutte le fermate per il totale irrisorio di un'altra oretta scarsa. Per un tratto che è circa come Milano-Firenze o Milano-Rimini, il passeggero ferroviario, il paziente, deve mettere in conto, comodità a parte, un totale di sole 5 o 6 ore. Anche perché da Genova l'Intercity Plus si concede innumerevoli soste in riva al mare, diventando una specie di allegro treno regionale. Quando si arriva poi, i francesi non si incazzano, come diceva Paolo Conte nella sua canzone, ma ci ridono spudorati in faccia. I soliti villani sciovinisti. Tra i francesi che si incazzano, tra i giornali che svolazzano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maurizio Cucchi Da Milano a Nizza in 5 ore, così viaggia il tenero Fantozzi, da venerdì di Repubblica del 18 novembre 2011.